fa, come impara da fa, si dopo tanto tempo, da si scordate me, e quando mi guardava, io pure ti guardava, l'occhio mi studiava, tutte mosse che faceva, si innamorava. Sentimi, chi ti fa fa, e torna una volta in braccio a chi lo ha. Si innamora di me, ma sentimi, non ci pensa, e torna una volta a tu chi lo ha. Che taccio di ta fa, che taccio di ta fa, tu amma una ta vota, un'ora può bastare per te sentire parlare e per te dicere che può. Non mi aspettava niente a te, che quella che sei stata. Sei innamorata di me, ma sentimi, ti do fa fa e torna una ta vota. Tu sei spogliata qua, si bella e non lo saci, come faccio a te guardare, voglio bene ancora, ma se dice proprio di, e intanto ti accontento con questa canzoncella. Si innamora di me, ma sente me, chi ti fa fa, e torna una volta in braccio a chi lo